I musicanti di Brema. Il sole era appena calato all'orizzonte quando il gallo cominciò a cantare dal tetto della stia. I suoi strilli strazianti gettarono nella confusione tutta l'aia. «È già mattina?» chiese insonnolito il gatto sollevando la testa. «Non è ancora nemmeno notte», rispose il cane. «Perché canti a quest'ora del giorno?» gli domandò l'asino, sporgendosi fuori dalla stalla. Canto per l'ultima volta, spiegò triste il gallo. Poco fa ho sentito il contadino dire alla moglie di gettarmi nel pentolone domani. Gli animali rimasero sconvolti. Chi si credono di essere quei due? Ci trattano come bestie, esclamarono. Il contadino mi prende sempre a calci, dicendomi che sono pigro, si lamentò con un guaito il cane. E a me dà delle gran frustate, se non tiro il suo carretto abbastanza in fretta, aggiunse l'asino. Anche sua moglie è cattiva, disse il gatto. Vuole liberarsi di me perché preferisco stare acciambellato vicino al fuoco che andare a caccia di topi. I quattro animali fissarono con rabbia la casa, dove il contadino e la moglie si stavano appena sedendo a cena. Abbiamo sopportato abbastanza, dichiarò l'asino. Scappiamo a Brema e uniamoci ai musicisti della città. Ottima idea, esultò il gallo. Tu puoi cantare da basso, il cane da tenore, mentre il gatto e io faremo i soprani. Gli altri furono d'accordo e tutti insieme aspettarono che le luci della casa si fossero spente. Poi sgattaiolarono fuori dalla fattoria e, al chiarore della luna, imboccarono il sentiero per la foresta. Gli animali si addentrarono sempre più nella foresta, finché giunsero in una piccola radura. Forse dovremmo riposarci qui, propose l'asino. Così lui e il cane si sdraiarono sotto un albero, il gatto si rannicchiò nell'incavo di un ramo basso e il gallo si appollaiò sulle fronde più alte. Riesci a vedere Brema da lassù? Chiese il cane speranzoso. Il gallo scrutò l'orizzonte. No, gridò di rimando, ma vedo una luce là davanti e proviene da una casa. Vediamo se gli abitanti ci offrono riparo per la notte, propose l'asino. Fa piuttosto freddo qua fuori, commentò il gatto. Forse ci lasceranno riposare presso il fuoco. E forse ci daranno anche qualcosa da mangiare, aggiunse il cane con un brontolio di stomaco. Si incamminarono dunque verso la casa. L'asino, che era il più alto e coraggioso, sbirciò dalla finestra per vedere cosa succedeva lì dentro. Cosa vedi? Chiese il gallo. C'è una bella tavola imbandita con tanta roba da mangiare e bevande, rispose. E ci sono degli uomini dall'aria losca seduti a contare grossi sacchi di denaro. Ah, se ci fossimo noi lì dentro al loro posto, sospirò il cane. Si può fare, disse l'asino, ho un'idea. Radunò intorno a sé gli altri animali ed espose loro il suo piano. Poi si mise alla finestra, ritto sulle zampe posteriori e con gli zoccoli anteriori poggiati sul davanzale. Seguendo le sue istruzioni, il cane salì sulle spalle dell'asino, il gatto saltò sulla schiena del cane e il gallo volò ad appollaiarsi sulla testa del gatto. Tutti trattennero il respiro, cercando di mantenere l'equilibrio, fino a quando l'asino diede il via. Ora cantate! L'asino prese a ragliare, il cane a ululare, il gatto a miagolare e il gallo a cantare. Tutti a pieni polmoni. Il baccano era così intenso che spaccò il vetro della finestra e gli animali irruppero nella stanza. Gli uomini, che erano dei briganti, saltarono in piedi. Ah, siamo aggrediti da un mostro a quattro teste! Urlò uno di loro. Presto, mettiamoci in salvo! Gridò un altro. I banditi si precipitarono fuori di casa e cercarono riparo nel sottobosco in mezzo agli alberi. Gli animali si misero a loro agio in casa e cominciarono a mangiare la cena dei ladri. Quando ebbero mangiato e bevuto a sufficienza, scelsero ognuno un posto in cui dormire. Il gatto si sistemò su un tappeto davanti al fuoco, mentre il cane si sdraiò sullo stoino accanto alla porta. L'asino trovò un soffice mucchio di paglia nel cortile e il gallo volò sul tetto. Dopo non molto dormivano tutti della grossa. Nascosti nella foresta, i banditi cominciarono a sentirsi scomodi e infreddoliti. Il loro capo disse: «Forse siamo stati troppo precipitosi. Io torno indietro a vedere cosa succede là dentro». Tornò a casa di soppiatto ed entrò in punta di piedi. Era così buio che sbatté contro la gamba del tavolo, svegliando il gatto. Nell'oscurità vide gli occhi dell'animale che brillavano accanto al camino e pensò che fossero gli ultimi tizzoni ardenti. Così si accucciò e accostò un fiammifero per accenderlo. Il gatto, per niente contento di essere colpito nell'occhio, gli si lanciò in faccia, soffiando e graffiando. Il bandito fece un salto all'indietro dal terrore e inciampò nel cane, che gli affondò i denti nella gamba. Il ladro barcollò accecato nel cortile, dove l'asino gli sferrò un poderoso calcio nel sedere con le zampe posteriori. L'uomo mugolò dal dolore e l'asino gli ragliò di rimando. Tutto quel trambusto svegliò il gallo, che si fiondò giù dal tetto in un turbine di piume, strillando un agghiacciante «chicchirichì!». Spaventato a morte, il malvivente tornò di corsa dai suoi compagni. «Che ti è successo?» gli chiesero. «Prima una strega mi ha soffiato in faccia e mi ha graffiato con i suoi artigli», raccontò. «Poi sono stato accoltellato da un demone armato di pugnale. Infine, una grossa bestia nera mi ha colpito con una mazza e un vampiro assetato di sangue mi ha inseguito gridando «Ti prendo, ti prendo!» Mi sono salvato per miracolo». I banditi non osarono mai più avvicinarsi a quella casa. Anzi, abbandonarono la foresta quella notte stessa e non ci misero più piede. Lasciarono lì così tanto cibo e denaro che gli animali passarono il resto della vita nel lusso. Mangiarono, dormirono e cantarono quanto vollero, e a Brema non ci arrivarono mai.